already know the answer. You are a disgrace. 也门的野中友好协会主席加迈尔。 Now to have psychologists and psychiatrists. 据说加迈尔先生在中国留学多年。 Jefferson Ming e l'arte del sorpasso di Stefano Pistolini. Voy a ver si empiezo a cantarle, ustedes me ayudan a terminar. Don Juan Otaya. Beh, dobbiamo ringraziare un ascoltatore che si chiama Gianluigi, che ci ha segnalato gentilmente via mail il video e anche l'audio, e anche il video vale la pena di dargli un'occhiata, di questo incontro così un po' stravagante tra Raul Castro e Ugin Tao, con Raul Castro che a un certo punto si esibisce nella cantatina che avete appena ascoltato, così magari una cantatina in cinese, intendiamoci, lasciando da parte il protocollo, dando il benvenuto a modo suo all'ospite onorevole che arriva da un paese lontano e potente, a cui, ed è a questo che volevamo arrivare oggi, si fa ripetutamente cenno nell'ambito di un rapporto molto importante che si chiama Global Trends 2025, Global Trend, Trend Globali, Tendenze Globali del 2025. In sostanza, attraverso un centro studi che si chiama National Intelligence Council, che raccoglie i migliori cervelli dell'intelligence americana, si arriva a prevedere con una data di indicativa del 2025, a cui difficilmente ci si spinge in questo genere di previsioni, come sarà il mondo del futuro esattamente tra 17 anni. E è molto interessante vedere come la Cina in un certo senso occupi, no, un luogo centrale in questo scenario che viene descritto, di cui ora vi daremo qualche particolare, ma in un certo senso sembri anche un po' già superata, no? Già scavalcata, già la grande rincorsa a cui abbiamo assistito e stiamo tuttora assistendo, no? Culminata poi con le Olimpiadi, con la grande aggressività sui mercati e l'abitudine che dobbiamo imparare come a coltivare come cittadini normali del mondo nei confronti di una Cina che diventa produttrice di tutto, no? Onnipresente, spesso anche con tanti rischi connessi. Questi scenari del 2025 entrano già un po' a far parte della storia, altre cose sarebbero successe e succederanno secondo quello che gli esperti di osservazioni più o meno segrete, qui siamo non troppo lontani naturalmente anche dalla CIA, provano a raccontare. È stato presentato a Washington questo rapporto di 120 pagine che aggiorna quello con cui nel 2004 erano state annunciate le tendenze del mondo fino al 2020. Naturalmente hanno risistemato molte assi di questi scenari futuri. Secondo il rapporto, il sistema internazionale nato dopo la Seconda Guerra Mondiale e ridisegnato dall'epilogo della Guerra Fredda andrebbe incontro a nuove rivoluzioni. Il sistema globale multipolare sarebbe quello che si va definendo, di cui l'attuale crisi finanziaria in un certo senso è l'antipasto di una riorganizzazione generale dell'economia che avrà effetti sul dollaro, sul sistema finanziario di oltreoceano e anche e soprattutto sul peso politico mondiale di Washington nel mondo. Il trasferimento senza precedenti della ricchezza avrebbe come indirizzo di destinazione in particolare Brasile, India, Russia e Cina, ma non necessariamente a danno degli Stati Uniti. Il mondo che verrà appare comunque turbolento nella analisi della CIA, che vedono nell'aumento di un altro miliardo e mezzo di persone della popolazione mondiale un aumento naturalmente della caccia alle risorse. La scarsità potrebbe dar luogo luogo a tensioni, a guerre. La turbolenza politica in Medio Oriente continuerà a renderlo un focolaio di tensione, un centro di tensione del pianeta. La popolazione musulmana nell'Europa occidentale, per gli analisti, nel 2025 sarà cresciuta in Europa, Europa occidentale, fino a 30 milioni rispetto ai 15-18 attualmente stimati. La circostanza avrà conseguenze anche nei rapporti transatlantici, scrive il rapporto. Questo virgolettato: l'attuale tensione a livello sociale e politico in Europa sull'integrazione dei musulmani probabilmente renderà gli europei sempre più sensibili alle potenziali ripercussioni domestiche di qualsiasi politica estera per il Medio Oriente, incluso un troppo stretto allineamento con le politiche degli Stati Uniti viste come pro Israele. L'Italia viene inserita tra l'altro tra i paesi che hanno e avranno una consistente popolazione di fede musulmana. La presenza in Italia è stimata dall'intelligence americano a circa 1 milione di persone, e questa cifra è destinata a salire notevolmente. L'Italia viene anche indicata tra i paesi che vanno incontro a maggior calo demografico, dice ancora questo rapporto. Tra ora e il 2025 Russia, Ucraina, Italia e quasi tutti i paesi dell'est europeo e il Giappone vedranno calare le loro popolazioni di vari punti percentuali. Questi declini potranno avvicinarsi o superare il 10% delle attuali popolazioni, appunto, di questi paesi, quindi una Italia più povera di italiani da un punto di vista numerico, quantitativo. Uno degli avvertimenti espresso da questo gruppo di futurologi della CIA riguarda la crescita di potere del crimine organizzato europeo, alimentato in particolare dalle realtà criminali in Russia, un paese dell'Europa orientale o centrale. Entro il 2025 potrebbe interamente finire sotto il controllo criminale. Insomma, non è che ci sia esattamente da stare allegro in questo mondo dei nostri figli. In Russia, tra l'altro, l'effetto serra potrebbe rendere più facile l'accesso alle aree per la trivellazione petrolifera e di gas nel nord del paese. Germania e Italia vengono indicati dalla CIA come due tra i maggiori clienti futuri dell'approvvigionamento energetico russo, con conseguenze dirette naturalmente sulle linee direttive della loro politica estera. Vi piace questo mondo che si disegna? È comunque piuttosto inevitabile. Naturalmente c'è una percentuale di errore in queste previsioni effettuate dai servizi segreti americani, ma temo ci sia anche una percentuale di verità. E attorno a questo mondo, a questo ridisegno nostro, nazionale e del pianeta, conviene ragionare per tempo. Qualche notizia invece dall'altra parte dell'oceano, in particolare dagli Stati Uniti. Una è una notizia, per fortuna, preoccupante, ma che non si è alla fine conclusa male, insomma, però ha fatto prendere uno spavento a tanti che magari erano davanti al video o che l'hanno seguito in dei servizi che sono certamente impressionanti. Sono impressionanti anche soltanto ascoltandolo. Michael Mukasey, il ministro della giustizia americano, ha avuto un bruttissimo malore nel corso di una conferenza. Ascoltate. Sentite, non riesce quasi più a parlare, si trova all'Hotel Marriott di Washington, cade per terra. Oh my God. Istantaneamente scattano sia naturalmente i soccorsi sul posto, sia naturalmente i meccanismi di sicurezza anche della protezione della giustizia americana. Viene immediatamente convocato il sostituto di Mukasey, viene ricoverato in ospedale lo stesso Mukasey. Poi le sue condizioni vengono dichiarate stabili, il pericolo e la paura passa. È buffo da un punto di vista mediatico notare come tutte queste cose ormai avvengano praticamente sotto gli occhi del mondo, che è testimone prima ancora di coloro che devono intervenire a sistemarle, no? A renderle nuovamente fluide ed esecutive. Lo spettatore casuale in un bar vede un ministro della giustizia che crolla per terra con tutto quello che in un sistema come quello americano un fatto di questo genere viene a provocare. E poi molta attesa oltre oceano per la nomina di Hillary Clinton a segretario di Stato. Dovrebbe avvenire giovedì o venerdì prossimo, ovvero alla festa del ringraziamento o immediatamente dopo. L'annuncio ormai pare peraltro confortato dall'annuncio di John Kerry, il senatore democratico candidato e sconfitto nel 2004 da George W. Bush, a prossimo presidente della Commissione Esteri del Senato degli Stati Uniti. Kerry, insieme a Richardson, era uno dei migliori e più accreditati concorrenti di Hillary Clinton, ma ormai parecchi insider, parecchie personalità vicine allo stesso presidente eletto Barack Obama danno per certo che la scelta è caduta su Hillary Clinton, con tutte le ricadute e le interessanti, no, implicazioni che questa scelta comporterà e su cui naturalmente dedicheremo attenzione prossimamente. Tell you a story about the house in blue. I come home one Friday, had to tell the landlady I done lost my job. She said that don't confront me, long as I get my money next Friday. Now next Friday come I didn't get the rent, and out the door I went. So I goes to the landlady. I said, you let me slide. I have the rent for it tomorrow, the next day, I don't know. So she let me slide it on, you know, people. I notice when I come home in the evening, she ain't got nothing nice to say to me. But for 5 years, she was so nice. Lord, she would love a dove. I come home one particular evening. The landlady said, you got the rent money yet? I said, no. Can't find no job. Therefore, I ain't got no money to pay the rent. She said, I don't believe you're trying to find no job. Said, I seen you today. You were standing on a corner, leaning up against a post. I said, but I'm tired. I've been walking all day. She said, that don't confront me. Long as I get my money next Friday. Now next Friday I come out in the rain, and out the door I went. So I go down the street, down to my good friend's house. I said, look, man, I'm outdoors, you know. Can I stay with you maybe a couple days? He said, let me go and ask my wife. He come out of the house. I could see his face. I know there was no. He said, I don't know, man. She kind of funny, you know. I said, I know. Everybody funny. Now you funny too. So I go back home. I tell the landlady, I got a job, I'm gonna pay the rent. She said, yeah. I said, oh yeah. And then she was so nice. Lord, she would love it, love it. So I go in my room, pack up my things and I go. I slip on out the back door. Down the streets I go. Beh, volevamo arrivare almeno al ritornello, no? Perché oggi è venerdì, questo qui è un vecchio cantante chitarrista blues americano, si chiama George Thorogood, alcuni di voi forse se lo ricorderanno, e dà un po' il segnale di come piace passare un venerdì sera, caro Emiliano, a tutti gli americani, quelli six pack come li chiama la nostra amica Sara Pellin, quelli che si accettuto passano al supermercato e si comprano, quello dice adesso, sentiamo, va via, ci siamo. Si compra una bottiglia di bourbon, una bottiglia di scotch, una cassa di birre, e poi che arrivi il weekend, anzi si siedono sulla Lazy Boy, no? La poltrona quella con i piedi tenuti in alto per guardare la partita di... In quanti film abbiamo visto football, queste scene? In quanti film, vabbè, pezzi di America, via. Prima pagina. Allora andiamo in Cina e udite udite, perché quella che sto per leggere è una notizia bella grossa, poi bisogna vedere quanto fondata. La Cina ha sviluppato l'intenzione e le capacità per lanciare attacchi cibernetici, diciamo più comunemente attacchi informatici, si legge virgolettato, ovunque nel mondo e in qualsiasi momento. Quindi anche, anche nel mio computer. Ecco, stavo dicendo, se stasera il tuo computer avrà dei problemi potrebbero essere i cinesi. Okay. A dirlo sono un gruppo di esperti del Congresso americano, quindi persone sulla carta affidabili, non so Stefano, aiutami tu a leggere questa notizia, sono sia democratici che repubblicani, quindi è una commissione diciamo bipartisan, che ha fatto degli studi, ha calcolato che nel 2007 circa 5 milioni di computer americani sono stati presi di mira da più di 43.000 attività di hackeraggio, quindi un terzo in più rispetto al 2006, ma soprattutto pare che queste minacce arrivino soprattutto dall'estremo oriente e dalla Cina, insomma gli esperti sono preoccupati delle abilità cinesi nel campo di internet, del web, della rete, di manipolare soprattutto tutta questa attività diffusa in tutto il mondo, e soprattutto gli esperti americani hanno il sospetto che sia direttamente il governo di Pechino a incoraggiare queste invasioni nella rete, e alcuni sembra che abbiano addirittura ricevuto un addestramento in basi militari, e qui forse si va veramente nella fantapolitica, nella fantascienza. Da par suo il governo cinese ha preferito non commentare. A me i soldi dalla carta di credito me l'hanno già fregati, ma poi era molto più locale la questione, quindi vabbè, attendiamo i cinesi al varco. Vabbè, aspettiamo le loro risposte. No, io voglio semplicemente informarvi che quello che avevamo previsto, insomma, profeticamente è avvenuto. Hanno naturalmente intercettato il famoso BlackBerry di Obama. Adesso se quello si fa vedere tutti i giorni con il BlackBerry in mano, vuoi che non ci sia un impiegato della compagnia telefonica, nella fattispecie la Verizon, di cui si serviva il neo presidente degli Stati Uniti d'America, insomma, di andare a dare un'occhiatuccia dentro, no? Insomma, avrebbero violato i conti telefonici di uno dei molti cellulari usati da Barack Obama. Peraltro il telefono non sarebbe più in uso, è vecchio, naturalmente tendono tutti a minimizzare. Di fatto hanno messo gli occhi dentro quei telefoni, come ci diceva anche un nostro esperto ascoltatore, hanno poi una memoria, cioè messaggi contenuti sono storati sotto, non so, le nevi del clima radioattivo, cose di questo da qualche tipo. Parte auguri a Barack Obama che non abbia scritto cosucce, vero, imbarazzante. Torniamo in Sichuan, nessuno parla più ormai del terremoto, di quello che è successo. Noi qui a Jefferson Ming per dovere, insomma, cerchiamo di tenere aperta una finestra di tanto in tanto quando arrivano notizie, perché per la prima volta il governo ha fornito dei dati ufficiali sul dramma, sulla tragedia umana che si è consumata il 12 maggio scorso nel terremoto del Sichuan. In particolare ha dato i numeri dei bambini morti per il crollo delle scuole, sono 19.000, quindi un numero impressionante, su un totale ancora più impressionante di 80.000 vittime ufficiali. Qui poi c'è tutta una polemica, ci sono anche delle battaglie legali in corso per i danni che i familiari di questi poveri bambini stanno chiedendo al governo, almeno locale, per il discorso delle scuole mal costruite. Secondo delle stime fornite dal Comitato Pubblico per verificare appunto i danni del terremoto del Sichuan, sono addirittura 1.000 le scuole mal costruite, quindi che forse se fossero state costruite in un altro modo non sarebbero crollate, nonostante che insomma il sisma sia stato del settimo grado, anzi quasi 8 della scala Richter, quindi un sisma terribile, insomma, violentissimo. Yeah. Casa Bianca. Il passaggio di consegne. Dunque, ci siamo ormai abituati a considerare la fase della transizione, il passaggio di consegne, come dice la nostra sigla, un procedimento particolarmente accelerato, no? Contraddistinto da una gran voglia di cambiare da parte dei subentranti, da nomi che saltano fuori per tempo, da un doppio presidente quasi a governare l'America, uno che, insomma, prima andarsene vorrebbe dare l'ultima sistematina alle cose, ma uno invece che vuole entrare è ansioso di darsi da fare. E allora che succede? Succede che anche i nemici giurati, no, della presidenza americana, i cattivi, quelli che siamo abituati ormai a considerare cattivi per antonomasia, ovvero Al-Qaeda, anche loro si adeguano, non aspettano l'inaugurazione del 20 gennaio della presidenza di Barack Obama, ma anticipano i tempi. Del resto siamo nell'epoca, no, dei media avanti a tutto, e fanno il loro comunicato per tempo. Al-Zawahiri ha fatto sapere che il suo non benvenuto a Barack Obama gli ha rovesciato addosso un certo quantitativo di insulti, lo ha minacciato prima di tutto di attacchi imminenti, e poi gli ha detto anche: stai molto attento a come ti muovi in Afghanistan, perché lì, e poi eccetera eccetera, insomma, le cose andranno male, e lo sappiamo bene come vengono organizzati questo tipo di comunicati. Ma al tempo stesso c'è anche una insistita posizione dell'amministrazione di Obama, dello stesso David Gates, probabilmente confermato alla difesa, e più in genere, insomma, del punto di vista del team Obama nei confronti del problema Al-Qaeda, e in particolare del problema Osama Bin Laden, che torna in prima linea tra i problemi che si intenderebbe risolvere subito o quasi, sempre se ne hanno le capacità. Allora, per fare un po' il punto della situazione su questi scenari, abbiamo chiamato un abituale amico del nostro programma, Alessandro Politi, il direttore dell'Osservatorio Strategico di Nomisma, esperto di problemi di sicurezza e di scenari internazionali, e commentatore strategico. Buon pomeriggio, Politi. Buon pomeriggio a voi. Cambia l'aria che tira dalle parti della Casa Bianca, a suo parere, in base a quello che così ci si ripromette di fare, e cambia quindi anche dalla parte di quelli che abbiamo chiamato i cattivi, oppure siamo ancora in fase di propaganda pre-insediamento? Beh, siamo ancora da entrambi i lati sulla soglia dei simboli, perché, certo, insomma, per ora non c'è nulla di concreto, anche se ci possono essere orientamenti interessanti. E certamente Al-Qaeda, che finora ha condotto abbastanza bene le sue campagne mediatiche, ma non così bene la sua guerra terroristica, deve cogliere il momento opportuno. Poi si vedrà che cos'altro fare, ma dopo aver deliberato doveva dire la sua sul nuovo presidente che arriverà. Certo. Cioè, in sostanza era un parere atteso, e forse non è stato utilizzato al meglio da Al-Qaeda stesso, no? In fondo il tipo di atteggiamento che ha preso era un po' tra il prevedibile e anche un po' tra l'antipatizzante, non so come dire, ma così facendo, ammesso che sia in cerca, almeno in area locale, di simpatie, ne può aver raccolte in questo modo? Probabilmente ha confermato i suoi militanti e qualche possibile recluta, ma insomma, quello che ci si chiedeva è che cosa avrebbe detto. Forse per qualcuno non era una sorpresa, ma ha cercato di lavorare comunque sui simboli della storia statunitense, certo, no? Certo. Per colpire Obama, certo, in realtà facendo sembrare molti dei suoi avversari repubblicani che lo accusavano di elitismo vicini alle posizioni di Al-Qaeda, ma certo, insomma, queste sono ironie della storia. Però più di tanto non poteva fare. Una cosa è certa: il jihadismo sa che un presidente diverso da Bush, un presidente che suscita così tante speranze, che per il solo fatto di essere stato eletto ha già migliorato notevolmente l'immagine degli Stati Uniti, non è una buona notizia. è una pessima notizia. Poi vedremo cosa fa. Ma se intende smantellare tutta una serie di eccezioni giuridiche e di serie violazioni dei diritti umani da parte dell'amministrazione Bush, questa è una brutta notizia, obiettivamente, per i jihadisti. Ma quello che ci si chiede, insomma, osservando le cose dall'esterno, è: può un neo presidente eletto, giusto in quanto tale, per esempio fare ciò che promette, ovvero catturare e uccidere o uccidere Osama Bin Laden, e a quel punto, insomma, perché questa prestazione non era nelle possibilità del suo predecessore? Questo è una cosa che dipende dall'amministrazione Bush. Certamente un presidente può promettere delle cose, altrimenti non si sa bene dove vada nemmeno lui. Ma poi bisognerà attenderlo alla prova di come le mantiene, no? Questo è chiaro. Certo. Dopodiché la cattura di Bin Laden è molto meno importante di tutta una serie di gesti concreti per smantellare lo stato di emergenza che va sotto il nome di guerra al terrorismo. Questa è la cosa che veramente è importante, perché è una risposta politica al fallimento politico di Al-Qaeda e del jihadismo. Lei come giudica la parte finale, la coda, diciamo, della presidenza Bush, che così tanto, insomma, del proprio impatto anche nazionale poi ha incentrato se negli ultimi mesi, quelli poi seguiti all'incremento delle truppe, ai successi di Petraeus, ai rapporti di Crocker, da parte proprio dell'amministrazione, da parte Bush, da parte della Casa Bianca, ha mancato, no, di mettere in pratica quel colpo di coda che ci si attendeva, quella chiusura del cerchio, comunque l'attribuzione in un certo senso di una logicità finale a tutto il procedimento. Si sta andando via un po' malinconicamente da questo punto di vista, o sbaglio? La malinconia è dovuta al fatto che ha perso la guerra in Iraq, con o senza Bin Laden. Petraeus ci ha messo una toppa politica, per di più. Ma insomma, la situazione in Iraq è difficilissima come prima, e si capisce molto chiaramente che Bush, che era arrivato sicuro di poter dettare legge in tutto l'Iraq, adesso sa che può restare in Iraq soltanto con il consenso qualificato e temporaneo del governo iracheno e di tutte le forze politiche irachene, nonché delle milizie esistenti. Invece, per quello che riguarda Bin Laden, mentre prima tentava di avere una leadership politica, molto presto in Iraq l'ha persa, per una serie di errori suoi. La morte di al-Zarqawi è il segnale chiaro della perdita di consenso in certe fasce della popolazione irachena. Grazie a Alessandro Politi. No, solo per dirvi questo branuccio, questo pezzettino, questa ballata sentimentale che si chiama Chinese Democracy, democrazia cinese, ed esiste un vecchio scherzo in voga tra i tre superstiti della critica musicale mondiale, gli altri sono morti tutti, che diceva che sarebbe arrivata prima la democrazia in Cina che l'omonimo, no, Chinese Democracy, album dei Guns N' Roses. Chissà chi ha vinto, è arrivata prima la democrazia in Cina o l'album dei Guns N' Roses. Intanto l'album dei Guns N' Roses è arrivato dopo 17 anni dal precedente. Se siete dei vecchi incalliti rocchettari, vi informo che Axl Rose ha 46 anni e che Dio lo abbia veramente, lo protegga. E comunque, insomma, loro sono tornati in campo. L'album è appunto dedicato alla democratizzazione della Cina ed è lo scivolo attraverso il quale andiamo a chiamare il prediletto tra i nostri amici, ovvero Saro Capozzoli, occhi e orecchie di Jefferson Ming a Shanghai. Ciao Saro, come stai? Ciao a tutti, sì, sto bene, grazie. Devi correre immediatamente, finita la telefonata, a comprarti l'album dei Guns N' Roses. Non starò io a indagare se te ne comprerai una copia autentica o una delle famose copie cinesi. Questo poi me lo dirai in privato, va bene? Sì, va bene. Senti, no, invece vogliamo parlare con te. Ti abbiamo disturbato per parlare di cose serie, insomma, perché noi abbiamo attraversato quasi due anni di Jefferson Ming seguendo la formidabile, irresistibile ascesa della Cina, e adesso uno va a casaccio, non so, su CNN.com versione Asia, apre l'articolo d'apertura e legge: la Cina ha il terrore di rivolte legate alla disoccupazione. Insomma, sta sopravvenendo nei media internazionali l'abitudine di dipingere scenari piuttosto foschi con annessi articoli relativi alla Cina, diciamo così, post-olimpica, come se i segnali fossero tanti e tanti di questi segnali fossero negativi e ci fosse in un certo senso una inversione di tendenza in atto. Vogliamo un parere sia dal punto di vista proprio dell'informazione, dei segnali che ricevi anche tu, e anche un po' annusando l'aria che tira da quelle parti. Saro, vai. Sì, diciamo che in Cina c'è molta preoccupazione ad alto livello, no? Perché qui si parla che siamo scesi dall'11 al 12, dal 9% di PIL, di sviluppo, ma la sensazione è che i dati reali siano molto più bassi di quelli ufficiali. E dato che la Cina ha bisogno di avere almeno un 8% annuo per poter garantire quei 30-40 milioni di lavoratori che si aggiungono nelle fabbriche, negli uffici ogni anno, no? Il fatto di essere probabilmente sotto questo numero come dato reale mette molto in agitazione il governo. Certo. Questo, per questo motivo stanno facendo adesso dei pacchetti straordinari che in parte erano già previsti, in parte, no? Ad esempio la ristrutturazione delle ferrovie era un qualcosa che era già previsto su 5 anni, e loro hanno ridotto a 2 l'investimento in modo da poter concentrare un tempo più breve gli investimenti e ristrutturare 56.000 chilometri di ferrovie in 2 anni. Ecco, questo è un po' quanto sta succedendo. Da qui si vede un po' di nervosismo e da qui si vedono poi i risultati di aziende che si stanno chiudendo. Nel sud della Cina sembra che ci siano 260.000 aziende cinesi che hanno già chiuso. Questa è una cosa che si sente, si avverte, nonostante siamo qui al 9% di GDP, di PIL, e la Cina sembra che non si sia ancora fermata. Ma facciamo un esempio, l'America, anche l'America della Main Street, come si dice, quella normale, quella dei cittadini normali, è ancora, no, sta ancora elaborando, sta ancora cercando di capire cosa significa vivere in un paese dove improvvisamente lo Stato, di fronte alla responsabilità responsabilità alla situazione, si assume la responsabilità di pompare, no, nella economia nazionale una cifra come quei famosi 700 miliardi di dollari. In Cina succede quasi lo stesso, cioè i miliardi sono pochi meno e vengono altrettanto pompati, facendo meno rumore, forse meno dibattito nella economia nazionale. Ecco, la Cina mainstream, la Cina della strada, come reagisce a notizie di questo genere? Ma diciamo che si è abituati qui all'intervento statale, ovviamente. Siamo un paese comunista e lo Stato interviene un po' ovunque, anzi è un qualcosa come un dovere che lo Stato debba intervenire a sollevare le sorti anche a volte dell'industria privata o delle aziende che sono state da poco privatizzate. E non si sente ancora gli effetti, diciamo, di questa crisi. Io penso che nessuno di noi, nessun giornalista, secondo me, nessun esperto possa dare dei giudizi in verità, perché i dati che ci sono ancora frammentari. Io penso che fra qualche mese, forse fra 6 mesi, se ci sentiremo, avremo dei dati più certi su cui riflettere. Io vi parlavo di quell'8%, come in un passato io ero convinto che la Cina fosse oltre quel 12-13% di sviluppo, però si cercava di nascondere i veri dati per non fare allarmare gli Stati Uniti. Ora penso che ci sia invece una tendenza diversa. E devo dire una cosa importante: dobbiamo ricordarci che la Cina ha cercato di pilotare un raffreddamento dell'economia, perché era troppo veloce. 2 o 3 anni fa ha cominciato già a rallentare il PIL per cercare appunto di controllarlo meglio, no? E questo, probabilmente, questa crisi è giunta in un momento che l'ha rallentata troppo, la sta rallentando troppo, e questo è qualcosa che adesso la Cina sta cercando di porre rimedio. Infatti ho una sensazione strana. Io sono qui da 20 anni ormai, il prossimo anno faccio 20 anni, ho una sensazione come di fine impero, non so come dire, perché questo fatto è un feeling che uno ha, perché questo è una città, proprio di questo, Sara, volevamo parlare, e continueremo peraltro a parlare nei prossimi giorni. Tra l'altro so che sei in arrivo in Italia, e vorrei anche aprire una breve parentesi, una meritata parentesi personale, perché l'azienda di consulenza di cui sei titolare verrà premiata, no? a Roma, c'era addirittura l'ambasciatore cinese. Insomma, questi 20 anni in Cina sono stati ben spesi, mi sembra. C'è un riconoscimento anche ufficiale. Sì, non sarà a Roma, sarà a Milano. A Milano, scusa. Italia-Cina, di Romiti, c'è un pannello appunto di autorità che ci hanno riconosciuto un po' per quello che abbiamo fatto. Diciamo, in 10 anni abbiamo portato qualcosa come 500 milioni di euro di investimenti in Cina, non solo italiani, e anche qualcosina, abbiamo portato anche un 123 milioni in verità di euro di investimenti cinesi in Europa. Ecco, qualcosa, diciamo, in 10 anni, cioè 10 anni di attività della mia azienda e 20 anni di Cina. Ecco, quindi diciamo è stata una sorpresa piacevole, qualcuno si è accorto di noi. Va bene, ti aspettiamo per brindare insieme allora, Sara, d'accordo? Va bene, grazie. Ciao. Finisce qui un'altra settimana di Jeff e Somming. Io sono Stefano Pistolini, redazione Emiliano Enrico, e in regia a Roma Alessandro Chiappini, a Milano Filippo Aureggi. La mail Jeff e Somming è radio24.it. Scendono già le tenebre, ma dovete aspettare le 9 per la replica, altrimenti in diretta ci ritrovate lunedì, come sempre, intorno alle 4 qui da Radio 24. Buon weekend. 无所谓真假，社会本来就是这样，别误会有怎样，别相信又怎样，玩不起这游戏的人就请靠边站，狗狗社区非常灵敏，可以闻到很多东西，却又色盲黑白分辨不清，观众也就跟着相信，最重要的是对得起自己不变的道理，高手过招带着面具，显得活得很清闲，我回家去，打坐取舍生涯戏，沉默的人最聪明，不做无聊的回忆，拍谁？